Vendo tutto di Matteo Caccia. Bergamo, Cesena, Incisa Valdarno, Castellana Grotte, provincia di Bari, Alesso, provincia di Udine, Palermo, Patti, Latina, Iesi, provincia di Ancona. Con gli oggetti che ho venduto sto facendo il giro d'Italia e non mi fermo, continuo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una scacchiera. Che poi, per dirla tutta, non è proprio una scacchiera, è una damiera. 800240024 0024 oppure 349-238-6666 per gli sms, perché oggi si parla di tornei assurdi che avete vinto e magari vi siete anche portati a casa un premio, perché questa damiera è stata proprio il primo premio in palio, ve lo racconterò meglio più tardi come sono andate le cose, che io ho vinto grazie ad un torneo, in quel caso, guarda caso, di dama. Se però avete partecipato a tornei assurdi, abitualmente immagino che la fantasia voli subito sui villaggi turistici, no? Per cui i tornei di, come si chiama, il cucchiaio con in bocca l'uovo. Non gare, mi raccomando, tornei proprio, per cui avete fatto qualificazione, ottavi, semifinali e finali. Giochi assurdi, il sacco, la gara col sacco, l'albero della cuccagna. Allora, non chiamate se avete vinto il torneo di calcio, di calcetto, di pallavolo, di basket. No, solo tornei astrusi. 800240024 0024 oppure 349-238-6666. Ho fatto questa cosa come mi capita di fare tutti i giorni, cioè ho anticipato quello di cui avremo parlato oggi sul profilo Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. E sono arrivati un po' di tornei assurdi, ma il più con tutto il rispetto per i tornei assurdi. E ci ha scritto, tra gli altri, Elisabetta. Elisabetta ha scritto: domani mattina partiamo per i campionati europei di twirling. Io sono dirigente della federazione e accompagnerò queste 44 ragazze che andranno a raccogliere i frutti di 9 mesi di duro lavoro. Sono cariche e determinate. Io invece me la faccio sotto per l'ansia. Io ho cercato un pochettino sul mio amico, si chiama Google, ancora più amico Wikipedia. Il twirling è una disciplina ginnico-sportiva caratterizzata dall'uso di un attrezzo denominato bastone e da movimenti del corpo che seguono con armonia una base musicale. Il termine twirling deriva dal verbo inglese to twirl, ovvero roteare. Io avevo, cioè ce l'ho tuttora, una cugina Raffaella che faceva twirling e mi ricordavo di questo bastone, però secondo me Elisabetta mi sa dire meglio esattamente che cos'è il twirling. Pronto Elisabetta? Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, grazie per essere qui Vendo Tutto in diretta a raccontarci e a svelarci il grande mistero del twirling. No dai, non è un grande mistero, vedi che comunque hai trovato qualcosa. Guarda, non è così misterioso. Beh, però sai, su Google si trova praticamente tutto e ti assicuro che prima in redazione, quando ho buttato un occhio, ho chiesto: qualcuno di voi sa cos'è il twirling? Hanno alzato la mano in un paio delle 20 persone che sono qui. Che cos'è esattamente? È un'attività sportiva, diciamo, il twirling è proprio l'attività sportiva agonistica nata dalla tradizionale attività delle majorette, quindi comunque l'origine del bastone è folcloristica, nel senso che tutto è partito nei secoli dei secoli dall'America con appunto le parate delle majorette. Ma però Elisabetta, poi scusami, è una cosa, per far capire a chi sta ascoltando e non sappia esattamente, è una cosa simile alla ginnastica ritmica, sì, o artistica? Esatto, sì, è molto simile, l'uso dell'attrezzo però è solo il baton twirl, per cui ci sono tutta una serie di difficoltà che hanno dei nomi tecnici, per cui con valutazioni in gara eccetera, per cui diventa una cosa proprio legata forse molto di più alla ginnastica ritmica. Senti, ecco. E invece raccontami, tu sei la dirigente della Federazione Italiana di Twirling. Sì, la Federazione NBTA Italia, che segue a livello nazionale questa attività sportiva, e siamo associati a una federazione che è l'NBTA Europa e NBTA International. Ma in Italia Elisabetta, quante ragazze, perché immagino sia solo femminile, giusto? Ma potrebbe anche essere maschile, qualche maschietto di ce fatto l'abbiamo. Ah, ce l'avete diciamo qualche maschietto? Sì, ma per cultura in Italia è molto difficile. Quante persone lo fanno in Italia il twirling, più o meno? Ma, guarda, non saprei dirtelo, parecchie, sicuramente almeno sopra il migliaio. E voi, sono tante. Tu ti porti invece domani a fare i campionati? La nazionale, sono 44 ragazze. 44 ragazze selezionate durante i campionati italiani lo scorso anno. E dove si tengono i campionati europei? Edimburgo. Siamo a Edimburgo, tra l'altro abbiamo visto il meteo, che anch'io sono fissata come te, per col il meteo 55.000 centimetri di neve in 2 giorni. Fantastico, ma tanto è al chiuso, giusto? È indoor, non è all'aperto. Sì, ma certo, è in un palazzetto sportivo. Elisabetta, senti, io purtroppo ti devo salutare, dimmi invece il nome di un paio che sono lì buone per vincere una medaglia. Allora, Elisa Gregori e Marassi Elena. Quanti anni hanno? Hanno 16 e 17 anni. Elisabetta, io ti faccio un grosso in bocca al lupo. Eventualmente ci sentiamo quando torni e vediamo come sono andate le nostre ragazze. Sicuramente. Grazie Elisabetta. Grazie mille Matteo. Buona giornata. Ciao. Io vi ricordo, Matteo Caccia Vendo Tutto, il profilo Facebook. Appena finisco il programma vi prometto che postiamo su Facebook un video che ha trovato Laura Faggin di una ragazzina di 8 anni, 10, 12, ce la posso fare, 12 anni, che fa twirling e fa dei numeri abbastanza impressionanti. Invece 800 24 00 24, il numero per chiamare se avete vinto un torneo assurdo nella vostra vita e magari anche che cosa avete vinto, oppure 349 238 6666 per mandare un sms. Veniamo invece al premio del torneo che ho vinto io. È una damiera, è quella che vendo oggi. Per vederla, radio24.it, per sentire la sua storia. Pronti? Via! La scacchiera. Damiera in legno massiccio ripiegabile a libro. Faccia esterna 64 caselle da dama italiana. Faccia interna 24 triangoli da backgammon. Completa di 15 pedine bianche, 15 pedine nere e una coppia di dadi. Dimensioni: lunghezza 42 cm, larghezza 41 cm, altezza da chiusa 6 cm, altezza da aperta 3 cm. Perfetta per passare il tempo e sublimare gli ancestrali istinti guerrieri. Valore commerciale 50 euro, base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Prendo molto seriamente i giochi. Che sia una partita di calcetto o di briscola chiamata, gioco con una serietà quasi maniacale. Una parte di questa serietà è dovuta al mio spirito di competizione, una cosa talmente travolgente che più di una volta ha stupito soprattutto me, visto come influiva sui miei comportamenti. Nonostante abbia quasi perso degli amici per alcune reazioni durante partite di calcio o di tennis, trovo la competizione comunque uno spirito molto sano. Oltre all'agonismo, però, la ragione per cui prendo molto seriamente tutte le competizioni a cui partecipo è una forma di rispetto verso i giochi, verso il loro valore formativo, la loro capacità di allenamento mentale, ma soprattutto nei confronti della loro storia millenaria. Il mio professore di storia delle scuole medie era un prete, si chiamava Don Agostino. Arrivava in classe con una bacchetta di bambù di 2 metri e la usava per indicare una grande cartina geografica alle sue spalle, perché lui diceva sempre: la geografia è l'occhio della storia. Fu Don Agostino a parlarmi per primo della teoria dei giochi. Fu lui a farmi capire che è lo studio delle decisioni individuali in situazioni di conflitto, in cui le decisioni di un soggetto possono influire sui risultati del suo rivale. Fu Don Agostino a dirmi di come anche le guerre si basino su strategie e movimenti tipici dei giochi. Insomma, credo che sia anche un po' colpa di Don Agostino se il mio gioco in scatola preferito è sempre stato il risico, e se ho sempre preso tutti i giochi che faccio come una cosa molto importante e non un passatempo in cui l'importante è partecipare. Se l'importante fosse sempre solo partecipare, tanto farebbe fare altro, no? Il fine è sempre il motivo per cui si fanno le cose. Lavoro per comprare da mangiare, mangio per sopravvivere, gioco per vincere. Mi piacciono in particolare i giochi antichi, quelli che sono stati inventati secoli fa per gli stessi motivi per cui si gioca ancora oggi: intrattenersi, allenarsi e vincere. Nessuno mi ha mai insegnato il gioco degli scacchi, purtroppo, però gioco a tutti i giochi di carte possibili ed ho una passione per la dama e il backgammon. Ecco, il backgammon, ad esempio, no? È stato inventato in Mesopotamia più di 5.000 anni fa. Cioè, da 5.000 anni gli uomini passano il loro tempo per sconfiggere l'avversario usando 2 dadi e 15 pedine. Il backgammon è più antico della lingua italiana, della stampa, è più antico perfino del cristianesimo. Anche la dama mi piace. Ci giocavo con mio padre d'estate, al mare, quando faceva troppo caldo per andare in spiaggia, e ce ne stavamo all'ombra del portico della casa che affittavamo. Devo avere preso da lui lo spirito competitivo. E ricordo che mia madre si arrabbiava perché lui, invece di insegnarmi, cercava sempre di vincere. Ma mio padre sosteneva che quello era l'unico modo per imparare. E secondo me aveva ragione. Perché questa scacchiera che vendo oggi l'ho vinta, anche grazie a lui. So take photographs and still frames in your mind. Hanging up on a shelf of good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. poi non è propriamente una scacchiera, è una damiera. Nel senso che tutti per comodità chiamano scacchiere quelle basi fatte a quadretti chiari e scuri, no? Ma la scacchiera è la base solo degli scacchi, mentre la base della dama si chiama appunto damiera. La mia damiera è bellissima. È grande e in legno, lucido e scuro. E a me sembra ancora più bella, proprio perché è il premio in palio per un torneo di dama che ho vinto. Era il capodanno di 4 anni fa. Avevo appena conosciuto Giulia e mi era parso normale accettare il suo invito per passare l'ultimo dell'anno nella casa di montagna di una coppia di suoi amici. Certo, ancora non conoscevo gli amici e non avevo considerato il fatto che la casa era una baita con 8 stanze più sauna e bagno turco, raggiungibile solo tramite una motoslitta. Fortunatamente ci saremmo fermati solo il 31 e l'1 saremmo ripartiti. La sera di Capodanno, dopo aver stappato lo spumante e sparato bengala a raffica, ho chiesto ai padroni di casa se avevano un mazzo di carte o qualche gioco di società. E qui loro tirano fuori la dama. Io ed Edoardo, uno degli amici meno scemi, abbiamo iniziato a giocare e nel frattempo si è messa a nevicare. Verso le 3 del mattino siamo andati a dormire, anche se io non ero molto tranquillo. Primo, perché avevo perso 5 partite su 6. E secondo, perché nevicava fortissimo e io volevo partire presto il giorno dopo. Ho aperto gli occhi alle 10 del mattino e ho guardato fuori dalla finestra. Era tutto talmente bianco che sembrava nebbia invece che neve. Il padrone di casa stava bevendo un tè e quando gli ho chiesto se secondo lui ci si poteva mettere in viaggio, lui sorrise dicendo che gli capitava spesso di rimanere bloccati per la neve. E io pensai, grazie per avermelo detto subito. Me ne tornai a letto. Quando mi svegliai nel salotto di casa era tutto un giocare a dama. Sembrava di stare in uno di quei parchi parigini dove due distinti signori giocano a scacchi e intorno un capannello di gente osserva in silenzio. Solo che al posto dei distinti signori c'erano la fiammetta e il Ludovico. E il capannello intorno faceva un gran casino, dicendo cose a caso, tipo «Sposta la destra! Dai, mangiagli la pedina! Ah, ma indietro non si può andare?» E fuori continuava a nevicare. Giulia mi diede un bacio di buon anno, un bacio che mi riconciliò con il mondo. E poi disse a tutti che il vincente tra i due avrebbe sfidato me, che oggi non avevo ancora giocato. Non che scoppiassi dalla voglia di mettermi a fare una partita dama, però volevo cominciare l'anno nuovo con la giusta disposizione verso il mondo e quindi aspettai che quel mentecatto di Ludovico si facesse stracciare la fiammetta e poi mi misi al suo posto e iniziai a giocare. Quella che iniziò come una partita finì come un torneo che durò tutto il giorno. Organizzammo gironi di qualificazione, ottavi di finale, quarti, semifinali e finali. Per il terzo classificato il premio era una grolla dell'amicizia, per il secondo un set di ferri da camino, mentre il primo premio era la damiera con tanto di pedine. Inutile dire chi vinse quel torneo visto l'oggetto che vendo oggi. Eppure, nonostante il torneo di dama e il gioco più antico della terra, questa damiera è in vendita. Il suo valore è di 50 euro, la base d'asta qui sono 99 centesimi. Per raccontarmi tutti i tornei più assurdi a cui avete partecipato e avete vinto, 8-0024-0024. Radio 24, vendo tutto. Alex da Milano scrive: avevo un collega che era campione europeo di soldatini. E poi ancora, ho partecipato a Prato al torneo degli scacchi ubriachi, dove chi mangia una pedina beve. Super alcolica scelta, gradi minimi 40. Sono arrivata ai quarti di finale dove non si capiva più quanti quadrati ci sono nella scacchiera. Da provare. Ho vinto all'oratorio a 16 anni il torneo di Pincanello. Naturalmente senza ganci. Laura Fagin cerca di mimarmi cos'è il pincanello, ma non ce la fa. Il pincanello, non so cos'è il pincanello. È il biliardino. Il pincanello. E Elio da Brescia, se hai voglia di spiegarci cos'è il pincanello, 349-238-6666. Invece 8-0024-0024, perché di tornei assurdi se ne organizzano e li si vincono anche. Federico da Milano, pronto? Pronto, ciao. Ciao Federico, come va? Tutto bene, sto a posto. Bravo. Tu a che torneo hai partecipato? Io ho fatto un fantastico torneo di Forza 4. Forza 4 era quello che aveva era quel gioco con i dischetti in verticale, rossi e gialli, flico, orizzontale, così. E hai vinto? Ho vinto un premio bellissimo che era uno yo-yo. Ma quanti anni avevi, Federico? Avevo 17 anni, quindi ero già grandicello, diciamola tutta. Ma chi l'aveva organizzato? Era, segui i giochi del campeggio, tipo gioco aperitivo, così. Cioè, come gioco aperitivo c'era un torneo di Forza 4, era tutta vita in quel campeggio, direi. Era abbastanza triste, ma adesso non insultarmi troppo. No, figurati, no, non tema eventualmente l'organizzatore del torneo. Senti, lo yo-yo ce l'hai ancora? No, perché tra l'altro lo yo-yo era pure sport, era sbilanciato, quindi non funzionava nemmeno, quindi è finito in pattumiera dopo 6 mesi più o meno. Va bene, senti, ci dici dov'era questo campeggio, giusto per sapere non andarci mai? Talamone, campeggio di Talamone in Toscana. Benissimo. Federico, grazie mille, buona giornata. Io posso dirti una cosa? Dimmi, al volo. Io ho l'elicottero di Big Jim. No, ma quello che si aziona con le pale? Quello lì, quello che schiacci dietro e gira tutto. Per far capire a chi non ha seguito le puntate precedenti, io da bambino avevo ricevuto in premio questo elicottero del Big Jim con le pale e l'avevo aperto prima del tempo, rompendolo anche. Senti Federico, parliamone, nel senso che io mi sto liberando di tutto. Ora, comprare un elicottero del Big Jim magari non è il caso, però vieni qua, ci facciamo una foto insieme. Io te l'elicottero del Big Jim. Questo weekend per Pasqua vado da mia nonna che dovevo avercelo là. Se lo trovo, va bene. A Milano, ti faccio una foto. Qualcosa. Bravo, io sono qua nella sera del Sole 24 Ore. Grazie mille. Okay. Ciao Federico, grazie, buona giornata. Ciao. Andiamo, provincia di Ravenna. Paolo. Ciao, sono Paolo. Ciao Paolo, io sono Matteo. Ciao, molto lieto. Anche un piacere mio. Mi è tornato in mente quella volta in cui da ragazzino avevo, non credo più di 14 anni, forse anche meno, sì. Anzi stravinsi un torneo di subbuteo organizzato dai miei amici perugini, perché io sono nato a Perugia, e i dirimpettai organizzarono questo torneo con tutti i giocatori più forti della città, che avevano 4, 5, 6 anni più di me. E io li missi tutti, credo di aver vinto tutte le partite, a parte un 2-2 con mio fratello, che era un giocatore di mezza classifica, che però io lo subivo molto. Perché era il fratello. Ma Paolo, scusami, ma cosa hai, c'era un premio in palio oppure? Guarda, c'era un montepremi sproporzionato per le nostre tasche, cioè? Però quei bastardi dei grandi, come li chiamavamo noi, sì. a 6 giornate dalla fine io giocavo contro il secondo in classifica. Ah, ma perché era una roba che si dilungava anche nel tempo, questo torneo. È stato un torneo lungo, ma... Quindi, scusa, dicevi Paolo, chiudiamo? Alla sest'ultima giornata io giocavo col secondo in classifica e avevo tipo 7-8 punti di vantaggio e vinsi 5-1. La quintultima giornata non fu mai giocata perché praticamente non riuscì neanche a vincere matematicamente il torneo perché si ritirarono praticamente tutti, e quindi non è, va bene, andata, quindi in vacca. È andata in vacca. Ok. Grazie mille, buona giornata. Ciao Paolo. Ciao. Andiamo a Como da Marco. Pronto, scusa. Ciao. Ciao Marco. Bene, tu come stai? Sì, abbastanza bene. Andiamo subito al dunque, Marco. Al dunque. Allora, il mio è un torneo classicissimo, tu hai detto di non considerarli, però che è un classico torneo di tennis. Però una particolarità, era in un campo naturista, io mi sono presentato bello con un mio bel competino da Wimbledon bianco, pantaloncini bianchi. Sì. Il mio avversario era un vichingo di 2 metri, con 3 gambe in pratica. Ah, va bene, Marco ti ringrazio che devo chiudere, buona giornata. Va bene, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Andiamo Roberto da Milano, al volo, pronto? Qua. Io ero vestito. Roberto. Sì, mi senti? Ti sento, vai. Ho avuto l'occasione di essere invitato dall'Intel a un torneo tra Kasparov e il microprocessore PC. Sì. E la sera dopo Kasparov ha giocato contro 10 dei noi dell'advisory board dell'Intel. Cioè aspetta un attimo, scusa Roberto, parliamo di Kasparov, quello degli scacchi mondiale. Ok. Ha giocato, sai, le partite 1 contro 10. Sì. E io sono quello che è durato di più e sono durato 14 mosse contro Kasparov, cioè, e quindi in termini di tempo quanto è durato? È durato forse 3 minuti, 4 minuti. Sono durato 14 mosse perché ho fatto una siciliana classicissima, le prime 9 mosse erano da manuale e poi però lui è stato divertente perché mi ha battuto, poi mi ha guardato e ha detto: tu hai fatto lo stesso errore che Capobianco fece a Malta nel 34. Okay. E tu ti sei sentito onorato? Onorato. Capobianco è stato il più grande maestro di scacchi della storia. Potevo immaginarlo, però poi ho smesso di giocare. Guarda Roberto, anche se non hai vinto il torneo, comunque mi sa che il tuo vince su tutti. Ho smesso perché non ce l'ho fatta. Va bene, grazie mille. Ho continuato a fare l'ingegnere. Arrivederci. Ciao Roberto, grazie e buona giornata. Ciao, grazie. Ultimo messaggio. Enzo da Sedria mi dice: sei classico un frevone. Termine napoletano che indica una persona che non ama perdere. Io sono come te. Ciao Enzo, ciao anche Laura Faggini, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. Trovate tutte le informazioni chiaramente sulla mia damiera, sul sito radio24.it o sul Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani vendo un paio di scarpe da montagna. Se voi non sapete giocare a nessun gioco di strategia, imparatelo, che alla fine sapere come muoversi è sempre meglio che sapere come stare fermi.